Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Volete coronare il vostro sogno americano magari con un contorno di comunicazione e pubbliche relazioni? Volete approcciare Los Angeles e il Sunset Boulevard facendo della città californiana la vostra base di lavoro e di vita? Se la risposta a una o entrambe le domande è sì, non potete assolutamente perdervi la prossima mezz'ora del programma, nel corso della quale la testimone della settimana ci racconterà tutti i segreti per lavorare nelle public relations sulla West Coast. Le segnalazioni bimensili di scambi europei su lavoro e tirocini all'estero apriranno la puntata di Generazione Mobile e saranno rafforzate nella seconda parte del programma dall'appuntamento con Alessio Romeo e le sue sempre più preziose indicazioni sulle opportunità del momento oltre confine. Un osservatorio sul lavoro nel mondo cui avete ormai fatto l'abitudine. E in chiusura vi presenteremo una nuova app sviluppata dalla Farnesina e dedicata a tutti gli italiani all'estero. Si chiama Mappa Mondo Consolare e vi anticipiamo solo che potrebbe tornarvi davvero molto utile. La California vi aspetta, correte tutti all'imbarco intercontinentale di Generazione Mobile. Lo spunto della settimana riguarda il programma Erasmus. Sono 31.000 le persone tra studenti neolaureati e docenti che hanno partecipato tra il 2014 e il 2019 al progetto Erasmus Plus VET, istruzione e formazione professionale. L'Italia è il quarto paese di destinazione dopo Regno Unito, Germania e Spagna. Più nel dettaglio, sono 25.000 i giovani che hanno effettuato tirocini presso aziende europee, mentre 2.500 docenti, formatori e tutor sono stati coinvolti nell'apprendimento e insegnamento all'estero. Il 31% di loro ha avuto anche l'opportunità di lavorare oltre confine a fine esperienza. Toolbox. Prosegue la collaborazione di Toolbox col portale Scambi Europei. Ogni due settimane segnalazioni utili e imprescindibili, nonché, come sempre, molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Buon pomeriggio, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Federico, oggi partiamo con una raffica vera e propria di tirocini in Europa che sicuramente possono interessare parecchi ragazzi all'ascolto. Partirei dalle capitali d'Europa, Bruxelles e Strasburgo. C'è un tirocinio di un anno dove? Presso l'ufficio del mediatore europeo, che è una carica istituzionale europea abilitata a ricevere le denunce dei cittadini che riguardano tutti quei casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi dell'Unione Europea. Attualmente appunto offre degli stage di 12 mesi a partire dal 1 settembre 2020 in due ambiti, sia quello di gestione dei casi pratici che in media e comunicazione. I requisiti sono quelli di essere laureati appunto in uno di questi campi, va bene sia giurisprudenza che scienze politiche piuttosto che pubblica amministrazione, o in comunicazione, giornalismo e media, e un'ottima conoscenza dell'inglese. Ci spostiamo ora in Francia perché c'è un altro stage, un altro tirocinio presso un'agenzia europea. Quale? L'Agenzia Ferroviaria Europea, nella sua sede appunto nella città francese di Valenciennes, che offre degli stage da durata dai 3 ai 5 mesi con una retribuzione prevista di circa 1.300 euro mensili, e appunto questa agenzia europea contribuisce all'integrazione delle reti ferroviarie di tutto il continente e sta appunto cercando giovani laureati almeno triennale con una buona conoscenza dell'inglese per vari settori, sia risorse umane che budget e finanza, IT, comunicazione e ufficio legale. Dalle istituzioni o agenzie comunitarie ci trasferiamo a un'istituzione internazionale che ha sede a Ginevra per un altro tirocinio. Sì. Si tratta del World Intellectual Property Organization, che è appunto l'ufficio dell'ONU che si occupa della protezione della proprietà intellettuale e che offre dei tirocini di durata variabile dai 3 a 12 mesi, per l'appunto nella sua sede di Ginevra, in diverse aree che sono economia e statistica, amministrazione, ma anche traduzione, ufficio legale e informatica. È rivolto sia a studenti universitari in corso che a neolaureati che abbiano un'ottima conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua scelta tra francese, tedesco, portoghese, spagnolo, russo, oppure arabo, cinese e giapponese. Inoltre sono richieste delle buone competenze informatiche con tutto il pacchetto Microsoft Office. La retribuzione prevista è tra i 1.500 e i 2.000 franchi svizzeri al mese e la scadenza per le candidature è il 30 giugno. E a chiudere, non c'è una vera e propria offerta di stage o di lavoro, ma un invito a un summit per giornalisti. Dove e quando si terrà? Sì, è un summit che si terrà a Londra, nella sede centrale di Sky, il 14 e 15 luglio, e si chiama Future News Worldwide 2020 ed è appunto rivolto a giovani giornalisti o futuri giornalisti. Sono previste 100 borse di studio appunto per partecipare a questo programma di formazione multimediale per ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 25 anni che siano iscritti a un corso di laurea o post laurea in qualsiasi materia e che abbiano un'ottima conoscenza dell'inglese. Ovviamente le spese di viaggio e di alloggio per tutto il periodo sono coperte appunto da queste borse. Per tutte le informazioni www.scambioeuropei.info. Il testimone. La testimone della settimana è una public relationer 25enne che con grande coraggio ha lanciato la sua personale scommessa a stelle e strisce. Più di un anno fa ha fatto le valigie salutando la Lombardia per imbarcarsi su un volo diretto in California. Il resto della storia, con tantissimi consigli pratici, ce lo racconta lei stessa. Buon pomeriggio, Giulia Baggini. Buongiorno. Allora, liceo linguistico in provincia di Bergamo, poi un corso di fashion styling all'interno della tua formazione, Giulia, seguito da un lavoro in Italia fino a quel viaggio negli Stati Uniti che ti ha cambiato la vita. Come è sbocciata l'idea di trasferirti oltreoceano? La scintilla è stata sicuramente il mio primo viaggio a Los Angeles, dove mi sono innamorata della città e della vitalità delle persone e di tutta la modernità che si respira là, e ho voluto accomunare la nostra capacità e esperienza italiana nel mondo della moda con l'avanguardismo californiano e vedere dove tutto questo mi avrebbe poi portato. Però hai dovuto affrontare due difficoltà. La prima è trovare lavoro. E come ce l'hai fatta? Semplicemente mandando dei curriculum online. Ho individuato il settore in cui volevo lavorare, che era il campo della moda, ovviamente, il tipo di lavoro e diversi siti nei quali poi mandare i curriculum. E ho iniziato a mandare i miei CV nella speranza di una risposta positiva quanto prima. E poi c'era un altro problema non indifferente, parlando di Stati Uniti, il visto. Qui com'è andata? C'è da dire che oggi ottenere un visto lavorativo negli Stati Uniti purtroppo non è più così semplice. Quindi mi sono armata di molta pazienza e molta buona volontà e mi sono affidata a un team di avvocati specializzati nel settore che mi hanno assistito in tutto il processo e mi hanno aiutato ad ottenere appunto il visto lavorativo. E attualmente di cosa ti occupi a Los Angeles? Attualmente lavoro per un'agenzia di pubbliche relazioni chiamata CLDPR, che è situata a downtown Los Angeles, e con il mio team chiamato Celebrity Team, nello specifico, ci occupiamo di lavorare a stretto contatto con tutti i più grandi VIP stylist del mondo di Hollywood, di modo che i nostri prodotti dei nostri clienti che rappresentiamo, che vanno da abiti da sera, costumi da bagno ad alta gioielleria, siano poi scelti per essere indossati dai più grandi divi di Hollywood, come per esempio Lady Gaga, Rihanna o Taylor Swift, per le loro apparizioni sui red carpet o per servizi. E diciamo pure il mondo dello showbiz, ridotto all'essenziale, potremmo dire, quello di Hollywood e quello californiano per come lo conosciamo. Allora, anche da te, Giulia, i consigli imprescindibili per farsi largo negli Stati Uniti in generale e in California in particolare. Ripartiamo con i siti dove cercare lavoro, magari con un target specifico nel mondo della comunicazione. Quali consigli? I più conosciuti sono sicuramente Indeed, Glassdoor e il nostro conosciuto LinkedIn. Tempo medio di risposta alle candidature? È molto veloce. Di solito se il datore di lavoro è interessato si può ricevere anche una risposta entro il giorno stesso dell'invio della candidatura e fissare poi un colloquio. E all'interno del settore PR e comunicazione ci sono degli accorgimenti ulteriori per trovare delle opportunità, soprattutto se si è molto giovani come te? Sì, sicuramente, dimostrando da subito uno spiccato spirito di iniziativa e un'attitudine alla gestione dei rapporti interpersonali. Il mio consiglio pratico poi è quello di iniziare con uno stage per capire meglio come funziona questo settore e di iniziare ad inserirsi poi in un'agenzia. Allora, è soprattutto importante avere un curriculum vitae molto calibrato sulle sensibilità americane. Ovviamente si tratta di un altro paese, un'altra cultura. Come consigli di strutturarlo? gli americani sono molto pragmatici e molto attenti alla sostanza, quindi consiglierei di strutturare il CV, oltre inserendo i soliti dati anagrafici, attestati scolastici di laurea, ma anche sulle proprie esperienze, approfondendo anche l'aspetto motivazionale del perché si vuole fare questo lavoro. E per trovare lavoro parliamo degli Stati Uniti e quindi parliamo anche di networking, il vero asse portante della cultura americana. Come funziona il networking, soprattutto in California, e come cercare occasioni di networking? Le opportunità di networking sono moltissime, specialmente in una città come Los Angeles, dove feste ed eventi sono veramente all'ordine del giorno. C'è da dire però che non necessariamente si deve essere invitati a dei party per fare conoscenze. Le persone lì sono talmente aperte e amichevoli che si possono fare nuove conoscenze appunto ovunque, in palestra, al supermercato, addirittura persino per strada camminando. Torniamo un attimo alla questione visti, Giulia. Abbiamo già accennata, raccontando la tua storia, ce ne sono tantissimi tipi. Come individuare il migliore, quello più adatto alle nostre esigenze e alla nostra situazione? L'unico modo per individuare il migliore è informarsi da soli, tramite internet o ancora meglio chiedendo consiglio a chi ha già avuto un'esperienza con i visti USA. Purtroppo chiamare il consolato e chiedere aiuto non è un'opzione, in quanto loro non gli è concesso consigliare che tipi di visto sono più adatti al proprio caso. Nella mia esperienza io mi sono informata da sola attraverso internet. Che visto hai fatto alla fine? Ho avuto due visti, il primo è stato il J1 e quello invece attuale si chiama O1. E il processo di preparazione per avere il visto è complicato da un punto di vista burocratico, una volta individuato quello che fa per noi, diciamo? Decisamente sì, ovviamente il livello di difficoltà varia a seconda di quale tipo di visto si vuole ottenere. Nella maggior parte dei casi è necessario farsi affiancare a un team di avvocati o da un'agenzia specializzata che ti assistano, e una volta preparata tutta la documentazione, nel 99% dei casi è necessario richiedere un'intervista presso il consolato americano, dove poi viene approvato o meno il visto. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Giulia Baggini, 25enne public relationer in California. Per Giulia la Prod Oltreoceano ha rappresentato il coronamento di un sogno, peraltro in un settore professionalmente molto ambito da voi giovani. Per questo, una volta di più, i suoi consigli possono rivelarsi davvero preziosi per tutti voi ascoltatori dagli orizzonti globali. Generazione Mobile. Vita a LA. Dove cercare casa e con quale formula? Esattamente come per trovare un posto di lavoro, anche quando si deve cercare casa a Los Angeles, ci si rivolge ad alcuni siti online. I più famosi sono Zillow e Trulia. Per quanto invece riguarda la formula, sicuramente quella più comune e diffusa tra i giovani è quella di affittare una stanza all'interno di un appartamento e poi condividere la casa con più coinquilini per dividere i costi e risparmiare. Quanto può costare un affitto a Los Angeles e anche quali aree tu consigli? Sappiamo che downtown Los Angeles insomma è più di uffici, mentre la città poi è enorme, si espande per chilometri e chilometri quadrati. Gli affitti a Los Angeles sono veramente cari. Per quanto riguarda l'affitto di una stanza, di solito si parte intorno ai $1,000. Invece se si vuole considerare di prendere un appartamento da soli, sicuramente non si va sotto i $2,000, anche solo per un monolocale. Parlando invece delle aree che io consiglio, io personalmente vivo a West Hollywood, che è una zona molto bella e che consiglio sempre a tutti quando vengono a trovarmi. Segnatevi, West Hollywood è anche simpatica nel nome perché riporta Hollywood. Quali documenti occorre presentare, Giulia, per ottenere l'affitto? Ce ne sono due in particolare che sono i principali, e sono il Social Security Number, che corrisponde al nostro codice fiscale, e un bank statement, ovvero una lettera dalla banca che attesta che i soldi necessari per permetterti l'affitto ce li hai. Sbrigata la pratica alloggio, ci sono altri passi per mettere piede oltreoceano, passi burocratici ovviamente? Burocratici no, però la prima di tutti, io direi, l'assicurazione sanitaria è assolutamente importantissima da avere quando ci si trasferisce negli Stati Uniti, e poi direi un conto corrente e prendere un numero di telefono americano. Allora Giulia, ringraziandoti per la miriade di consigli preziosissimi che ci hai fornito oggi, sono stati veramente tanti e spero saranno utili per tutti coloro i quali vorranno in qualche modo seguire i tuoi passi, ti pongo l'ultima domanda di rito. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Innanzitutto consiglierei assolutamente di fare questa esperienza senza esitazioni, perché ti forma veramente non solo a livello personale ma anche professionale, in quanto si può fare esperienza e vedere come all'estero si lavora e si vive. Poi, praticamente parlando, direi informarsi il più possibile da casa, avendo tutti i documenti necessari poi una volta arrivati là, e se possibile magari intercettare una conoscenza o un'amicizia sul posto che ti possa aiutare ad ambientarsi meglio. Ultimo ma non meno importante, sicuramente avere un'ottima padronanza della lingua e uno spirito di adattamento. Per quanto riguarda in particolare la California e gli USA in generale, io vorrei dire a tutti quelli che pensano di iniziare un'esperienza di questo genere che gli americani, a differenza magari di quello che succede da noi, ti valuteranno sempre per quello che fai e per il valore aggiunto che poi porti, indipendentemente da dove arrivi o di chi sei. Quindi sicuramente investire sempre sulle proprie capacità. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci oggi Alessio. Per questo nostro primo slot di febbraio ci dedichiamo a un attesissimo appuntamento che è il premio indetto da Glassdoor dedicato al Best Place to Work 2020, il più noto portale web al mondo nel quale gli impiegati anonimamente recensiscono le proprie aziende e i loro superiori. Allora, ecco che Glassdoor decreta HubSpot la società vincitrice della 12ª edizione di questo prestigiosissimo award. Il premio misura la cultura aziendale, valori edificanti come l'essere umili, empatici, adattabili, trasparenti e affidabili. HubSpot, piattaforma che sviluppa software in ambito marketing, sales e customer service, fondata nel 2006, ha battuto le grandi multinazionali investendo fermamente nel coinvolgimento dei dipendenti, espandendosi a livello globale con uffici in 8 paesi ed una significativa crescita della forza lavoro da remoto. Se poi diamo un'occhiata in tempo reale alle open positions presenti online, la società presenta 221 vacancies in Germania, Francia, Irlanda e poi Stati Uniti, Singapore, Giappone e Australia, che spaziano nelle divisioni sales e marketing, ma anche business enablement, finance e administrative, risorse umane ed engineering. L'analisi di Glassdoor continua con il riconoscimento di un totale di 100 aziende nella lista dei migliori luoghi di lavoro del 2020 per i grandi datori di lavoro, cioè quelli con oltre 1000 dipendenti. Oltre a ciò ha anche prodotto l'elenco dei migliori luoghi di lavoro per le piccole e medie imprese statunitensi, meno di 1000 dipendenti, e ha anche indetto nuovi premi in Canada, Regno Unito, Francia, Germania e anche Brasile, Messico, Argentina e Singapore. Sugli altri due gradini del podio spiccano Bain & Company al secondo posto, società di consulenza strategica con quasi 200 posizioni aperte nel mondo, Stati Uniti, Australia, Europa, Far East e Middle East, mentre al terzo posto DocuSign, società californiana che permette la gestione dei documenti elettronici con centinaia di posizioni aperte tra Stati Uniti, Brasile, Dublino e Parigi ed altre location nel mondo. In questo caso la posizione più ricercata è quella di Sales e Business Development con 149 vacanze, altre 61 open positions in ambito engineering e tech operation, 39 in IT, InfoSec, Cyber Security Risk ed altrettante in marketing e via via le altre divisioni. Rapidamente vediamo il resto della top 10 a partire dalla quarta posizione che vede in N-Out Burger, questa catena di fast food statunitense situata soprattutto in California. Poi continua la Sammons Financial Group, la Liverpool National Laboratory, Intuitive Surgical e continuiamo con la Ultimate Software, VipKid e Southwest Airlines. Curioso trovare in questa lista tutte queste nuove aziende con altrettante posizioni sparse in tutti i continenti. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi parliamo di una innovativa app scaricabile su telefono e tablet, pensata dal Ministero degli Esteri per aiutare tutti i nostri connazionali residenti oltre confine nelle pratiche burocratiche. Si chiama Mappa Mondo Consolare e a presentarcela è venuto con noi in onda Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina. Volevamo offrire ai giovani italiani all'estero, a quelli che chiamiamo appunto di nuova mobilità, uno strumento nuovo, interattivo, facile da usare, e abbiamo pensato appunto a un'app che potesse aiutarli nel percorso di arrivo all'estero, di ricerca eventualmente di opportunità professionali, di inserimento nella realtà locale, e su questa abbiamo costruito quindi questa app. La cosa interessante è che attraverso questa app voi date la possibilità di accedere a dei servizi. Ci può spiegare quali? Dunque, intanto si può individuare il consolato di riferimento, la struttura, in altre parole, attraverso la quale interagire, e questo con un sistema di geolocalizzazione delle nostre oltre 200 sedi consolari nel mondo. E poi c'è una sezione di cose da fare in caso di necessità, come si può rinnovare il passaporto, quali sono le modalità per ottenere dei documenti, come in altre parole rapportarsi alla struttura consolare. E poi vi sono tantissime informazioni anche su tutte quelle che sono le attività che nelle varie sedi nel mondo possono interessare i nostri connazionali. Insomma, una vera e propria miniera di informazioni che credo molto utile per chi si reca o per chi ha intenzione di recarsi all'estero. Quali sono le sezioni in cui si suddivide? Ci sono tre macro aree: viaggiare, studiare e vivere. Viaggiare ovviamente, che tratta tutto quello che bisogna sapere preparandosi ad andare all'estero, e quindi appunto qual è il consolato di riferimento. Studiare è la seconda area, e questa utilizza ovviamente tutta una serie di informazioni che possono essere utili per chi vuole per esempio ottenere borse di studio, per chi è interessato ad ottenere dei certificati anche dalla istituzione consolare. E poi vivere è quella più importante, perché ovviamente in qualche modo facilita i processi di integrazione nella realtà all'estero, indicando chiaramente quali sono le varie agevolazioni, i vari contatti che i connazionali devono intraprendere per potersi pienamente integrare in una realtà estera. Avete programmi in futuro di svilupparlo ulteriormente, magari rendendo disponibile online l'utilizzo di determinati servizi? Sì, certo, già da adesso vi sono dei rinvii a, per esempio, al nostro portale Fastit, che è il portale per l'iscrizione all'AIRA, all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. In prospettiva vorremmo che si potesse attraverso questo portale anche presentare la pratica di passaporto. Insomma, vogliamo uno strumento che sia facile, intuitivo e ovviamente di aiuto ai nostri connazionali. Per maggiori informazioni potete scaricare l'app Mappa Mondo Consolare su Google Play Store ed Apple Store. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast, lo potete fare dal sito di Radio 24, e ricordate che questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza in onda? Raccontare la vostra storia? Soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi stanno ascoltando? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it.